Bisendagi di luna shunashi panyandani jinya jineshu waralu jinabi jinya nyoke ninadi geru niruna rendarashpalu geru niruna rendarashpalu Yarenda Shunashi winni stilla di tua Shunashi winni stilla di tua Nyane bisho seguiro pacuti Bisana bice bicagana Geruni runa che capairuti Thank you.